Giovedì 8 settembre 2015, 87.9 la modulazione di frequenza, questa è Radio Onda Rossa, dal 1977 libera da padroni e pubblicità, la voce dei senza voce, la radio di chi se la sente. Potete contribuire a farla vivere, uno dei modi è la sottoscrizione sul numero di conto corrente postale 6180 4001, da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volsci 56 00185, Roma. Oppure si può andare sul sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page c'è sostieni per le modalità telematiche. Siamo a Visionari, l'appuntamento con il cinema, tutti i giovedì dalle 14 alle 15, potete ascoltarci in diretta sulle nostre frequenze oppure in streaming dal sito internet della radio, sull'home page c'è Ascolta la diretta. Per quanto riguarda le informazioni sulla scaletta di oggi e sulla trasmissione più in generale, trovate tutto sul sito alla voce trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari, mentre l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Eccoci subito con Andrea Costa, co-regista del documentario In mezzo a tutto questo, che è in concorso al sesto Via Emilia Doc Fest online fino agli inizi di novembre. Andrea, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie. Tutto bene? Sì, tutto bene, grazie. Allora, cominciamo da dalla firma di questo documentario, che è un lavoro a più mani. Sì, siamo tre realizzatori, tre registi. Io, Guido Rizzone ed Ermenegildo Livezzi. Vuoi che ti racconto un po' com'è nata la cosa? Beh, certo, sì, le origini. Allora, intanto partiamo direi dall'argomento. In mezzo a tutto questo, a cosa fa riferimento, soprattutto per chi ci ascolta? Sì, allora, in mezzo a tutto questo è una frase che viene, insomma, citata nel documentario, che fa riferimento a uno status, cioè al concetto di stare immersi all'interno di una certa situazione e la voglia e la forza di cercare di cambiare questa situazione nella quale diciamo si ci ritrova. Nello specifico stiamo parlando della Terra dei Fuochi in Campania, quindi nelle province fra Napoli e Caserta, dove negli anni '80 soprattutto vennero, diciamo, come molti sanno, suppongo, interrati quantitativi ingenti di rifiuti di tipo industriale o comunque tossico e nocivo. Molti dei quali provenienti da nord. Sì, da nord o addirittura dall'estero. Molti magari mediaticamente pensavano che erano dei rifiuti per lo più locali o comunque urbani, invece no, la maggior parte erano rifiuti industriali provenienti dal nord Italia o comunque da addirittura dall'estero. Si parla anche a volte di scorie nucleari. E questo, diciamo, è stato l'inizio. Attualmente non è più così, o meglio, ci sono ancora questo genere di rifiuti tossici industriali, che però non vengono più sotterrati, ma bensì accumulati nelle periferie dei campi agricoli o comunque in zone periferiche, e poi gli viene dato fuoco. E questo dà luogo a roghi tossici, dove nelle zone nelle quali, insomma, la suddetta terra dei fuochi, dove avviene questa procedura di smaltimento rifiuti illegale, sono aumentati considerevolmente i tassi tumorali, anche di tumori rari, soprattutto per quanto riguarda le persone più a rischio, quindi i bambini o comunque anziani, in generale comunque il tasso è aumentato moltissimo. A questo punto ci racconti come è nato il progetto, come lo avete sviluppato? Sì, allora io e i miei due colleghi Ermenegildo e Guido, quando, diciamo, è nato questo progetto, dovevamo preparare la tesi di laurea all'Istituto Europeo di Design a Milano e dovevamo scegliere, diciamo, l'argomento. Allora abbiamo iniziato a pensare, abbiamo cercato di trovare qualcosa che potesse starci al cuore, quando c'è qualcosa che potessimo raccontare che ci interessasse direttamente. E uno dei miei colleghi, Ermenegildo Livezzi, che è di Santa Maria Capua Vetere, quindi in provincia di Caserta, una zona di quelle che si parla poi all'interno del documentario, ha avuto quest'idea di voler raccontare questa realtà, e noi subito l'abbiamo sposata in pieno. Quindi è nato molto spontaneamente, cioè ci siamo appunto guardati intorno e abbiamo detto cosa vogliamo raccontare e abbiamo voluto dare voce a questa vicenda. Oh Andrea, in tutto questo io ho avuto modo di vedere il documentario che è online gratuitamente e anche votabile, oltre al vostro, ce ne sono altri 20 al Via Emilia Doc Fest. Questo per parentesi relativa al festival che abbiamo presentato un paio di settimane fa. Ho visto che nel lavoro avete seguito anche il lavoro quotidiano di tutti quei singoli organizzazioni che poi hanno dato vita a quella grandiosa manifestazione di migliaia e migliaia di persone, un fiume in piena a Napoli, che ha segnato un po' un punto di svolta rispetto all'atteggiamento della popolazione civile rispetto alla passività e all'indifferenza, no? Sì, assolutamente. Quando noi abbiamo iniziato se ne parlava già molto a livello mediatico della situazione e molte persone, molti attivisti, molti cittadini liberi poi a Napoli hanno deciso di fare questa enorme manifestazione di protesta sociale contro anche un abbandono delle istituzioni e dello Stato nei loro confronti, non solo nella tutela della salute ma anche poi nella bonifica e nel diciamo rimedio di queste situazioni. Il problema, che poi noi affrontiamo anche durante il documentario, è cosa è successo dopo, o meglio quando i riflettori poi si sono iniziati ad abbassare su questa vicenda dopo la grande manifestazione che è stata l'apice di tutte le voci indipendenti che c'erano all'inizio nella provincia di Napoli e Caserta. Sono rimasti, come spesso accade, solo pochi attivisti, cioè che poi sono, attenzione, non sono pochi, però sono solo gli attivisti che praticamente dedicano la loro vita, cioè ci sono delle situazioni nelle quali praticamente è quasi più di un lavoro, stanno più ore a fare gli attivisti che non a lavorare praticamente, perché appunto è una cosa che sentono. E il documentario analizza proprio in che modo e diciamo come si svolge la vita di questi attivisti a 360 gradi, quindi come cercano in ogni modo di risolvere o comunque di migliorare la loro situazione. Quindi Andrea, quello che ci dici rispetto all'oggi è che c'è stato un po' un riflusso e quindi si trovano in pochi militanti attivisti a far fronte a questa situazione. Sì, assolutamente, cioè se tu, come hai detto di aver visto le immagini di Napoli, si parla di migliaia e migliaia di persone, anche i giornali ne hanno parlato, però poi dopo quella nei fatti ne sono rimaste in alcuni casi meno, in alcune diciamo associazioni meno di 10, meno di 5, in altre un po' di più, centinaia, però comunque pochissime, nel senso poi e come dire, quando l'attenzione mediatica si abbassa è inevitabile che siano sempre in pochi quelli che si sono battuti magari fin dall'inizio a crederci e a lottare. Senti, in tutto questo comunque di buono c'è sicuramente che hanno fatto rete tra loro i vari comitati, i vari assemblee che si battono sul tema ambientale. Sì, hanno avuto grande lungimiranza secondo me, perché inizialmente erano partiti ognuno diviso cercando di migliorare la situazione nel loro singolo comune, ma avendo un male per così dire grande e inevitabilmente comune fra di loro, hanno avuto l'idea, la pazienza e la buona volontà di unirsi, di diciamo creare coalizione fra di loro e lottare insieme per un obiettivo comune, quindi non solo per il loro, che ne so, il loro piccolo comune singolarmente, ma per la situazione in generale. Infatti nel documentario c'è il coordinamento Comitato Fuochi, che è un esempio visibile di questa situazione, dell'unione dei vari comuni, sia di fronte ai cittadini che di fronte alle istituzioni stesse. Danno forza. Andrea, allora il vostro documentario è visionabile sul sito internet del Via Emilia Doc Fest, però per saperne di più avete anche altri spazi internet? Attualmente un sito di riferimento, no. Una pagina Facebook? Sì, c'è una pagina Facebook, ma principalmente diciamo siamo più attivi attualmente sul sito di Via Emilia Docfest, dove può essere anche visionato e diciamo è più organizzato da questo punto di vista. Bene, allora un in bocca al lupo e speriamo di sentirci per le altre novità. Crepi, sì, grazie. Ciao Andrea. Ciao, grazie mille. Andrea Costa, co-regista del documentario In mezzo a tutto questo, all'interno della sesta edizione del Via Emilia Doc Fest, il festival di documentari online. Eccoci con uno dei nostri appuntamenti fissi annuali, che è quello con il Terra di Tutti Film Festival, nona edizione, un'edizione speciale che per l'anno europeo dello sviluppo diventa Art Festival, e ne parliamo con la direttrice Stefania Piccinelli. Ben ritrovata a Visionari su Radio Onda Rossa. Ben ritrovata a te e a tutti i vostri ascoltatori. Dal 7 all'11 ottobre a Bologna, raccontaci un po', Stefania. Sì, quest'anno abbiamo tanto da raccontare, appunto come hai detto siamo diventati per un anno Art Festival, e quindi oltre alla programmazione densissima di film e documentari, sono quasi 60 le proiezioni quest'anno che proponiamo al nostro pubblico, c'è anche una proposta di arte, e quindi di vari tipi di arte, sempre per parlare di diritti e di sviluppo, e abbiamo delle performance teatrali, performance di danza, una parte speciale sul fumetto e una biciclettata alla scoperta della Bologna vista dagli occhi dei migranti che vivono appunto in questa città, quindi ci porteranno a scoprire la Bologna multiculturale. E questo è la parte art. La parte cinema è partita ieri con la nostra apertura, diciamo ormai fissa, sulla Fortezza Europa, che quest'anno è ancora più fortezza del solito, se questo è possibile. È una situazione che invece di migliorare peggiora, e noi insomma abbiamo cercato di fare il nostro piccolo per denunciare una situazione che, a dire il vero, ormai tutti conoscono e sugli occhi di tutti, quindi manca proprio solo la volontà di cercare delle soluzioni. Quindi dicevi Fortezza Europa, immagino che sia quello il punto focale di questa edizione. Volevo sapere ecco, se rispetto alla questione diritti ci sono altre tematiche più ricorrenti nei lavori che presentate. Sì, allora stasera, quindi la seconda giornata di Terra di Tutti, parte con una questione, anche questa è una questione abbastanza scottante in Italia in questo momento, ma non solo, che è la questione della casa, del diritto alla casa. E partiamo con un film su chi di questo diritto ne ha fatto anche poi il suo programma politico e ha vinto le elezioni a Barcellona, in Spagna. Sto parlando della PA e di Ada Colau, e presentiamo questo documentario, Si se puede, 7 giorni alla PA di Barcellona, che racconta un po' la storia di questo movimento molto, molto recente, dirompente, che appunto ha cercato di trovare le soluzioni concrete alla problematica della casa, che con la crisi in Spagna era diventata, e anche con una legislazione particolarmente negativa, era diventata veramente un dramma per moltissimi cittadini che venivano buttati fuori dalle proprie case. E continuiamo con, invece in Italia, Luoghi Comuni, che appunto riflette sulla casa, e questa volta a essere sfrattati sono, e quindi puoi andare in occupazione, trovare solidarietà eccetera eccetera, è una famiglia egiziana, e quindi è una riflessione sulla casa anche come punto di riferimento, e da cui parte la famiglia, la solidarietà eccetera. Quindi questi sono i due film che proponiamo stasera per i diritti. Poi, come sempre, Terra di Tutti ha una programmazione tematica, sessioni tematiche, per cui insomma il pubblico si orienta abbastanza bene. Venerdì alle 16 proponiamo appunto Visioni di un certo genere, proprio sui diritti di genere, in particolare LGBT nel mondo, con un film sulla Victory Day, un film sui diritti appunto omosessuali, gli omosessuali in Russia, e un film molto interessante, Asia una primavera rosa, su invece la situazione dei non diritti nel mondo arabo, appunto per le persone omosessuali. Sì, stavi continuando. Ti volevo chiedere rispetto ai paesi di provenienza dei lavori che presentate, un po' da tutto il mondo. Sì, da tutto il mondo, veramente dalla Russia appunto alla Tunisia, al Marocco, la Spagna, l'Europa. Abbiamo un bel film sulla Siria canadese, di un siriano che vive in Canada, appunto un autore che è andato a cercare di ripetere di seguire questa drammatica guerra in Siria dopo 3 anni dall'inizio del conflitto, e quindi insomma abbiamo davvero un programma molto molto ricco. Senti, prima ci parlavi di solidarietà, ecco, rispetto alla questione migrazioni ed Europa, come ci riferivi all'inizio, ci sono ecco dei film che prospettano una soluzione, un modo di affrontare questa emergenza in maniera che tuteli appunto i diritti? No, devo dire che dei film che propongono soluzioni, no, la soluzione che noi proponiamo è quella di aprire queste frontiere. Questo è il nostro messaggio forte del festival, non solo quest'anno ma gli anni scorsi. È chiaro che la frontiera è diventato un problema enorme per quest'Europa, e che sembra quasi che debba costruire la propria identità costruendo muri sia al suo interno che al suo esterno, perché appunto i muri che facciamo vedere sono anche quelli delle nuove politiche, quindi la frontiera allungata dell'Unione Europea in Tunisia piuttosto che la frontiera reale tra Melilla, insomma nell'enclave spagnolo in Marocco. Quindi quello che noi diciamo è basta con questa politica delle frontiere, che è una politica che crea morte, disagio e sofferenza. Senti, diversi generi e formati, immagino, dai cortometraggi ai documentari ai film di finzione. Sì, abbiamo una sessione anche tutta di cartoni animati domenica, quindi di animazioni, non di cartoni animati, domenica, che è aperta sia per la facciamo in collaborazione con la Cineteca di Bologna, quindi Schermi e Lavagne, ed è aperta anche ai più piccoli, sebbene siano animazioni insomma per adulti. E poi chiudiamo il festival con un film molto molto molto interessante, The Wanted 18, di un autore, è una coproduzione palestinese e canadese, può darsi che vi ritornerà questo film perché è veramente interessante, ed è costruito con la tecnica del documentario e dell'animazione, sia animazione animata che fumetto. È davvero un lavoro molto molto interessante, che consigliamo e che appunto proietteremo domenica 11 alle 18:30 fuori concorso di Amer Somali e Paul Kaun. Stefania, terminiamo con i riferimenti internet per la programmazione? Sì, allora tutto il programma completo lo trovate sul nostro sito www.terraditutti.filmfestival.org, e poi ci potete seguire sia su Facebook che su Twitter. Un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima, Stefania. Grazie mille a voi e un saluto a tutti. Ciao ciao. Stefania Piccinelli, direttrice della 9ª edizione del Terra di Tutti Film Festival, un'edizione speciale che per l'anno europeo dello sviluppo diventa Art Festival. A Bologna da ieri 7 ottobre fino all'11. Ritroviamo Valerio De Paulis di Cinema Distribuzione per parlare del film Much Loved, in uscita oggi in sala, oggi giovedì 8 ottobre. Valerio, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno Onda Rossa, come state? Tutto bene, e complimenti per questa scelta. Per chi ci ascolta, raccontiamola un po' per sommi capi, Valerio. Va bene, allora Much Loved è un film che si svolge in Marocco oggi, è un film contemporaneo e racconta la storia di quattro ragazze che sono diventate poi amiche, che per vivere sono costrette a fare le prostitute perché non hanno altre possibilità, sono belle, sono un po' sfrenate e fanno questo lavoro con grande allegria e grande ironia. In realtà sembra che siano contente, ma non lo sono, perché le donne marocchine che fanno le prostitute sono rigettate dalle famiglie, non possono andare a casa, non possono andare a vedere i figli se ce l'hanno, e quindi hanno una vita estremamente contrastata. Da una parte di notte fanno finta di divertirsi con dei sauditi, degli europei, perché le pagano, e poi vorrebbero avere una vita più normale e non riescono ad averla. In tutto questo hanno un sogno, un giorno di poter diventare delle donne libere e di poter vivere amate da qualcuno. Più o meno questo è il pitch del film, il racconto del film. Naturalmente il film è molto più di questo, perché è una non per raccontare una cosa noiosa, ma è anche un'analisi sociologica e politica del paese, di quello che succede lì, di come sta modificando il paese, perché questo nuovo re che è arrivato dopo la morte del vecchio re è comunque un re progressista. Addirittura il sindaco di Marrakesh è una donna, che per i paesi arabi è un grande cambiamento in avanti. E quindi questo film vuole anche proprio cercare di sgominare questa idea che queste donne che si prostituiscono debbano essere considerate come delle reiette, come delle, peggio delle assassine. Ecco, questo è un po' sì, il racconto. Senti Valerio, uno dei punti di interesse di partenza è il fatto che si in una un film che parli di prostituzione femminile in una società islamica, già questo è un dato di fatto molto interessante. Beh, ma assolutamente, ma il film è un film molto innovatore da questo punto di vista. È il primo film che, nel quale si vede appunto una prostituta in un contesto arabo. Non solo, è il primo film che fa vedere come i sauditi, che hanno le stesse proibizioni nel loro paese, vanno in Marocco, dove bevono, si ubriacano, fanno orge, ci hanno queste donne, e anche questo per loro è proibito. Abbiamo perso la linea. Comunque stavo dicendo che sì, che il film, che poi è anche, voglio dire, non è un film solo politico-sociologico, è un film che fa vedere queste ragazze che sono tutte bellissime, che fanno queste nottate, che poi c'è molta simpatia, molta amicizia, molta solidarietà. È un film, è un grande film sulla solidarietà femminile, su volersi bene, perché non hanno altri, le famiglie non le vogliono, mariti non ne hanno, e quindi si rifanno tra di loro, abitano insieme, si vogliono bene, si proteggono. C'è molto sentimento, c'è anche molto affetto nel film. Senti Valerio, dopo la presentazione nei festival, che circuitazione ha avuto nel mondo e che riscontri ha ottenuto? Dunque, il film in Marocco è stato proibito, non uscirà. L'unico paese che è uscito prima di noi è la Francia, dove sì, è andato benissimo, ha avuto un'accoglienza molto importante. Tutto il cinema francese d'élite si è schierato contro questa decisione del governo marocchino di proibire il film. Ci sono stati fogli di protesta, eccetera, eccetera. Poi il film sta uscendo in Belgio oggi, esce in Italia oggi. Questi sono i primi paesi dove il film è uscito. È andato al Festival di Cannes, come probabilmente sapete, è andato al Festival di Toronto, dove ha avuto molto successo. Insomma, vediamo poi che cosa succede con gli incassi. Spero che la gente ci va. Io penso che sia un argomento molto interessante, Però naturalmente quando io scelgo il film, al mio punto di vista non è che, insomma, bisogna vedere poi che cosa ne pensa la gente, ecco, ovviamente. Ecco, proprio a questo proposito, Valerio, volevo sapere del tuo incontro con il film e della tua decisione di distribuirlo in Italia. Beh, io l'ho visto a Cannes e a me è molto piaciuto, ma è un bellissimo film, è girato molto bene, ha molta energia, racconta delle cose che io non sapevo neanche e, insomma, non lo so, io penso che sia un film assolutamente che, per la mia linea, per i film che distribuisco io, è un film che sta assolutamente dentro questa serie di film che raccontano il mondo, che raccontano le donne, che raccontano delle cose che fanno riflettere, fanno pensare, e quindi per me era inevitabile prenderlo. Questo è proprio un film che sta totalmente nella linea del cinema che io voglio fare, è una specie di film, è un film che deve molto al neorealismo italiano, questo film qua, un po' come Taxi per anni, sicuramente. Sì. Ecco, proprio a questo proposito, Valerio, la neonata creatura di Cinema Distribuzione, quali sono le sue direttive, visto che non tutti la conoscono? Beh, vabbè, il cinema adesso ha cominciato da poco, ha distribuito Taxi Teheran e distribuisce da oggi Much Loved. Poi noi abbiamo un film italiano che abbiamo preso, che si chiama Dobbiamo Parlare, un film di Sergio Rubini, una commedia molto divertente, con Bentivoglio, l'Aragonese, è un'altra attrice napoletana molto brava che va al Festival di Roma e uscirà nelle sale il 5 novembre. Mm-hmm. E poi abbiamo un film giapponese che era a Cannes, che ha inaugurato la Certain Regard, che è un film di una regista giapponese molto famosa in patria, ma non solo in patria, che si chiama Naomi Kawase, ed è un film che si chiama Le ricette della signora Toku. E questi sono tutti film che escono fino alla fine dell'anno. Poi a gennaio abbiamo il film che ha vinto il Leone d'Oro a Venezia, che si chiamerà Da Lontano, che è un film venezuelano molto forte, molto importante, e poi insomma ne avremo altri. Quindi un'aspirazione internazionale di qualità, Valerio, questo è il... Sì, ma sì, certo, questo è la mia ambizione. Allora, Much Loved, da oggi nelle sale, in quante copie, Valerio? 28 però, per questa settimana, poi allargheremo la prossima. Benissimo, allora un abbraccio... In tutte le grandi città italiane ci siamo dappertutto. Bene. Da Palermo a Torino, da Genova, a Firenze, a Roma, a Milano... Babari, insomma, tutte le città che contano siamo lì. Allora, un abbraccio, in bocca al lupo e alla prossima. A voi e tante grazie. Ciao Valerio, ciao. A presto. Valerio De Paulis di Cinema Distribuzione sul film Much Loved, in uscita in sala oggi giovedì 8 ottobre. Ritroviamo Antonio Adinolfi di Videa sulla distribuzione del film The Program, anche questo in uscita in sala oggi giovedì 8 ottobre. Antonio, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, grazie a voi e buon pomeriggio a tutti. Allora, un film di Stephen Frears, ho avuto modo di vederlo alla presentazione stampa, raccontiamolo un po' a chi ci ascolta, Antonio. Ma The Program è di fatto... un film tratto da un libro di inchiesta di David Walsh, che è un giornalista del Sunday Times, quello che ha fatto scoppiare anni fa il caso Lance Armstrong dopo le continue vittorie al Tour de France. E Stephen Frears, come ha raccontato tra l'altro qui a Roma in conferenza stampa scorsa settimana, era interessato più che altro al taglio giallo, crime, più che alla storia del ciclista. Insomma, non mi sembrava Frias interessato né al ciclismo né a Lance Armstrong come appunto campione, ma era più che altro interessato alla vicenda umana, cioè quello che è successo, questo uomo che ha sconfitto il cancro, ha vinto tutto quello che si poteva vincere, una sorta di supereroe, e poi la caduta, per cui è un po' un film sulla metafora dell'ascesa e la caduta di un eroe che poi si è trasformato e si è rivelato essere un impostore, insomma. Tutto questo però è servito a scoperchiare un ambiente del tutto marcio, perché insomma la questione doping riguardava un po' tutto l'ambiente. Io non sono un grande esperto di doping nell'ambito sportivo. Ho capito che il doping diciamo fondamentalmente era nato e si era molto sviluppato nel ciclismo in generale, sì, proprio come disciplina, e poi mi pare che si sia derivato in altri sport. E, sicuramente prima il libro e poi il film in qualche modo gettano una luce molto chiara, secondo me inequivocabile, su quello che è stato appunto questo grande scandalo sportivo. E questo è un merito, se vuoi, sì, del film stesso. Sì, sì, sì. Senti Antonio, un'altra questione riguarda la figura di Armstrong, che mi ha fatto impressione soprattutto sui sottotitoli in finale, quando c'è una dichiarazione dello stesso Armstrong datata 2015 in cui lui si dichiara comunque amico del Tour de France, e lui ha sempre minimizzato questa questione che poi comunque lo ha travolto. Bah, diciamo che quest'anno nel Tour de France 2015 mi sembra che lui in qualche modo volesse partecipare da protagonista per una raccolta fondi per la sua fondazione contro il cancro, e credo che sia stato bandito proprio dall'ufficialità. So anche che ha fatto una sorta di iniziativa in parallelo durante il Tour de France e ci ha avuto una copertura mediatica sorprendente. Per cui secondo me lui è uno di quei personaggi che è vero un antieroe, però c'ha dietro come dire una curiosità morbosa che un po' colpisce tutti, e secondo me il film c'ha poi questo. Un'altra questione riguarda il ciclismo, perché dopo questo scandalo, dopo insomma tutti i Tour de France, i 7 Tour de France vinti da Armstrong, sì, che gli sono poi stati revocati, sì, è stata una botta quasi mortale per uno sport popolare diffusissimo come quello del ciclismo. Beh sì, anche se prendi sempre, come dire, col beneficio del dubbio rispetto all'argomento, di cui non sono proprio un esperto, secondo me poi il ciclismo, i veri amanti, sì, del ciclismo, sì, chi lo pratica, chi lo segue, ha continuato a farlo, e mi pare insomma che sia nel Tour de France ma sia poi nel Giro d'Italia chi lo trasmette delle televisioni c'ha sempre dei grossissimi picchi di ascolto, i fedelissimi ci stanno e sono tanti per uno sport che è bello, insomma. Credo che rispetto alla figura di Lance Armstrong proprio i ciclisti abbiano un atteggiamento di grande, come dire, non dico chiusura, ma è come se fosse disconosciuto, cioè non è considerato un campione. Ecco l'atteggiamento che ho percepito parlando con della gente appunto molto più addentro di me nel ciclismo, era proprio questo, cioè una sorta di croce sopra Lance Armstrong e quello che Lance Armstrong ha rappresentato, sì, nello sport. Perché poi ha avuto tutti degli annessi relativi al mondo della scienza, della medicina, che comunque hanno sostenuto questa mostruosità fisica, umana, sportiva, insomma. Beh, certo, io non credo che lui, come dire, avesse quell'energia perché beveva il succo de banane. Credo che qualche cosa un po' più chimico l'abbia utilizzata. E io vorrei cogliere l'occasione, sì, proprio per questo, per dire una cosa, perché certo, proprio ieri è arrivata a Videa, e stamattina era su tutti i giornali, una diffida vera da parte degli avvocati del dottor Michele Ferrari, che nel film è citato, cede, è un personaggio ed è quello che sembra essere, come dire, l'artefice del programma, no, del doping, in cui appunto diffidavano e diffidano la Videa come società di distribuzione a far uscire il film perché è lesivo per l'immagine del medico, eccetera. Devo dire che è interessante e anche curioso, se mi permetti, certo, che proprio il giorno prima, proprio in Italia, proprio quelli che qualche anno fa avevano appunto diffidato un giornalista sportivo della Gazzetta dello Sport a dare informazione e notizia su Michele Ferrari, che poi mi sembra sia stato completamente bandito, radiato no, dall'albo dei medici, eccetera. Per cui, come dire, era un succo di banane forse un po' artefatto, ecco. Senti Antonio, come allora, intanto un film un po' insolito per la filmografia di Frears, come hai avuto modo di incontrarlo come hai deciso poi di distribuirlo? Guarda, in verità è un film assolutamente insolito, anche se però secondo me Frears è uno di quei registi che non ha un concetto di filmografia molto omogeneo, nel senso che lui lo ha detto proprio in conferenza, lui è interessato a delle storie, quindi se la storia è la regina Elisabetta piuttosto che Filomena, piuttosto che Beautiful Laundrette o la storia di Lance Armstrong, sì, a lui interessano le storie umane. Sì. Detto questo, era un film che noi abbiamo letto 2 anni fa, ci era molto piaciuto e soprattutto, insomma, Frears, un regista di grande riferimento, e poi veniva dal grande successo di Filomena, di conseguenza era un film interessante per Videa e nella linea e nelle corde editoriali di Videa, per questo l'abbiamo preso. Quante copie per l'uscita? Allora, usciamo oggi con 150 copie. Una signora uscita, insomma. È una signora uscita, ci crediamo, mi sembra che abbiamo fatto un buon lavoro di lancio, insomma, di visibilità, e il film c'è. Poi vediamo, insomma, speriamo che vadano in tanti a vederlo. Bene. Antonio, un abbraccio e alla prossima. Un saluto a te, grazie sempre. Ciao. Ciao, ciao. Antonio Adinolfi di Videa sulla distribuzione del film The Program, in uscita in sala oggi giovedì 8 ottobre. Cristiana Mainardi, autrice del soggetto del film, del documentario collettivo Milano 2015, in uscita in sala il prossimo lunedì 12 ottobre. Cristiana, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, buongiorno a tutti. Ne avevamo parlato quando era in fase di attuazione con uno dei registi, nostro amico Giorgio Diritti. Dietro a questo progetto, insomma, ci sei tu che ne hai curato il soggetto. Cristiana, raccontaci un po' dell'origine di quest'idea. Ma l'origine risale davvero a qualche anno fa, quando cioè a Milano abbiamo iniziato a capire che stavano accadendo dei cambiamenti importanti. Ovviamente l'occasione era anche determinata dalla scadenza di Expo, anche se all'epoca ancora non si sapeva esattamente come sarebbe finita. Però diciamo che a mano che il tempo passava ci siamo soffermati ulteriormente, non tanto sul cambiamento dei luoghi, ma soprattutto sul modo in cui i luoghi venivano diversamente abitati, e dunque, non banalmente, su una nuova comunità che secondo noi stava in qualche modo rianimando Milano. E da lì chiaramente è partito tutto un processo di indagine, di osservazione, di riflessione, che poi ci ha portato a formulare chiaramente un perimetro più compiuto. Diversi gli autori coinvolti per quanto riguarda la firma dei diversi episodi del documentario. Sì, assolutamente, perché chiaramente desiderando raccontare Milano con il cinema, siamo andati un po' a ripercorrere il modo in cui era stata fatta nel passato, e per noi è stata una pietra miliare Milano 83 di Ermanno Olmi, soprattutto perché fu un documento censurato immediatamente dopo l'uscita, perché dava un'immagine della città che allora era la Milano da bere, molto ruvida, molto ostica, molto univoca, senza appello in questo senso. E nel 2013, 30 anni dopo, quindi, fu proiettato a Milano alla presenza di Olmi stesso. In quell'occasione lui disse esattamente quello che anche noi pensavamo fosse, avesse un senso, quindi questo tema della Civitas, e allo stesso tempo pensammo che non aveva senso cercare di raccontare Milano globalmente e con un unico punto di vista. Quindi l'idea di iniziare a ragionare attraverso più occhi, più pensieri, più sensibilità ci è subito parsa molto interessante, e da qui anche l'idea di avvalerci di, chiamiamoli, outsider, quindi di persone sempre con una sensibilità artistica, provenienti però da mondi artistici differenti dal cinema, e dunque i tre esordienti. Cristiana, ecco, materialmente come si è svolto il lavoro? Nel senso, tu hai lavorato al soggetto, poi qual è stato il contributo di ogni singolo regista, e come vi siete mossi, se collegialmente oppure ognuno poi si è mosso autonomamente con un'idea però che era frutto di un'elaborazione comune? Beh, diciamo che come dire, l'idea iniziale del soggetto prevedeva che si raccontasse un po' la città, immaginandola stratificata dal sottosuolo al cielo, e attraverso dei temi chiaramente che poi erano anche quelli che contraddistinguevano Milano 83. Quindi singolarmente per ogni regista che abbiamo individuato abbiamo raccontato e chiaramente condiviso la parte che era già scritta a quel punto di Milano 2015, per comprendere se effettivamente c'era questa adesione, questa voglia, senza nessuna tesi da dimostrare, di davvero stare ad indagare la città. E devo dire che qui subito abbiamo trovato una totale adesione, un grande entusiasmo rispetto alla voglia di soffermarsi in questo racconto, e dunque abbiamo iniziato a fare delle riunioni insieme a tutti quanti i registi, proprio per affinare quelle che ciascuno riteneva essere le aree di indagine più proprie, più vicino a se stesso. E dunque da lì ognuno poi ha iniziato a sviluppare anche un trattamento più approfondito, e poi, essendo un documentario, come sempre c'è un po' la realtà che ti porta, no? Quindi sì, si parte con un'idea e poi si sta anche ad osservare quello che accade, e singolarmente ogni regista ha lavorato sul suo set per arrivare al compimento del suo film. Chiaramente per chi si sta incuriosendo al tema, l'indagine riguarda il centro, la periferia, quali luoghi, Cristiana? No, in realtà io credo che, proprio per quello che dicevamo in premessa, al di là dei luoghi che sono comunque tutti rappresentati, perché, per fare un esempio, accanto al dormitorio storico oggi intitolato a Iannacci di Viale Ortles, dove tutte le notti 800 persone vanno a dormire provenienti dalla strada, a solo 300 metri ha aperto la Fondazione Prada con un'opera di riqualificazione importantissima, enorme, e dunque di segno totalmente opposto a un dormitorio. E questo accade in una zona periferica sud di Milano che è raccontata, così come chiaramente sono raccontati altri luoghi, perché basti pensare che una citazione della Milano 83 di Olmi è la galleria, ovviamente, con quel rito dei turisti di mettere il tacco della scarpa e ruotarlo. Per cui credo che la città sia rappresentata anche per le opere che nel 2015, come la Darsena, ovviamente sono stati di cambiamenti molto importanti, ma in realtà credo che questo film sia bello perché racconta tanta umanità, e in ogni singolo episodio ci sono situazioni differenti, molto contemporanee, ma che al tempo stesso credo che in qualche modo si rifacciano dopo una crisi valoriale che ha investito senz'altro tutto il paese, ma in particolar modo anche Milano, insomma basta pensare che cosa è accaduto qui negli anni passati, in qualche modo una città che credo si sia nuovamente ancorata ai suoi valori storici, che sono senz'altro l'operosità, ma anche l'integrazione e l'accoglienza. E quindi credo che sia questo la bellezza di Milano oggi, e spero anche del film, ecco, che c'è molta umanità. Sì, sì, ecco, in parte mi hai risposto, perché la domanda era proprio relativa a questo, Cristiana, perché prima, parlando della nona edizione del Terra di Tutti Film Festival, si parlava di Fortezza Europa, e allora volevo chiederti se Milano si scopre oggi più accogliente rispetto al passato. Ma io penso di sì, nel senso che credo che oggettivamente Milano sia capace di grandissime manifestazioni di solidarietà molto fattive nella quotidianità, quindi personalmente io conosco delle realtà che sono pure anche raccontate comunque nel film, appunto il dormitorio dicevamo, ma in un episodio ci sono pure le giornate dei siriani in stazione. Ovviamente non è un reportage questo film, quindi attraverso un'interpretazione viene fatto questo, però io credo che Milano oggi in qualche modo consenta anche di nutrire una speranza in questo senso, quantomeno forse è un augurio che noi ci facciamo. Quindi la risposta è sì. Cristiana, per l'uscita del 12, lunedì 12, quali sono le modalità che avete pensato? Dunque, il film esce nell'ambito dei Cinema Days e dunque dal 12 al 15 è in una oltre una trentina di città, e poi chiaramente insomma se la gente lo apprezzerà, le sale che lo vorranno tenere lo potranno assolutamente fare, quindi noi speriamo di sì e ovviamente insomma ci auguriamo che venga visto. Allora un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima, Cristiana. Grazie infinite, grazie mille, abbraccio a voi, buon pomeriggio. Altrettanto, ciao Cristiana. Cristiana Mainardi, autrice del soggetto del documentario collettivo Milano 2015, in uscita in sala lunedì 12 ottobre. Eccoci con Erika Romano, direttrice della 12ª edizione del Festival delle Terre, premio internazionale audiovisivo della biodiversità, al Teatro Ambra Garbatella qui a Roma dal 12 al 14 ottobre. Erika, ben ritrovata a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao a tutti, buon pomeriggio, ciao. Allora, un titolo che è già abbastanza esplicativo, raccontacelo un po', Erika, quali sono le caratteristiche di questa rassegna? Allora, quest'anno siamo insomma alla 12ª edizione e questa edizione insomma siamo anche riusciti a renderlo un festival itinerante e abbiamo avuto varie edizioni in Sardegna, in Calabria, a Milano, e diciamo che il festival nasce appunto all'interno del Centro Internazionale Crocevia e ha scelto insomma da anni quindi di testimoniare attraverso insomma il linguaggio del documentario la questione dei diritti legati alla terra, ai contadini e alla sovranità alimentare. Senti, allora, per questa edizione, 12ª edizione, quante sono le opere che saranno viste al festival e da quali territori, da quali regioni, aree geografiche provengono? Certo, allora i lavori che abbiamo selezionato quest'anno sono 15 e coprono insomma varie aree tematiche. La programmazione delle tre giornate si divide insomma per sezioni tematiche e abbiamo come sempre alcuni lavori insomma sui popoli indigeni a cui dedichiamo la prima giornata, e insomma non c'è modo migliore secondo noi di parlare di questioni legate alla difesa del territorio, di biodiversità e di resistenze, e che insomma un po' dall'Asia al Sud America abbiamo scelto quindi storie di persone che con fatica tentano insomma di ribadire il diritto alla terra e per chi quotidianamente un po' la vive e la rispetta, quindi insomma si va dall'Asia al Sud America all'Italia in realtà. Senti, come sono le lotte, i movimenti che dal basso cercano appunto di resistere rispetto alla gestione della terra, immagino le privatizzazioni, immagino le grandi aziende che devastano i territori, insomma come si mobilitano i contadini e più in generale le comunità? Allora guarda, su questo abbiamo un sacco di lavori interessantissimi e tra i vari insomma ce ne sono tantissimi. C'è questo lavoro tedesco che si chiama No Rest No Ast, e ovviamente non ambientato in Germania ma in Argentina, e che ripercorre insomma appunto un po' le lotte che negli ultimi anni sta portando avanti lì il movimento della Via Campesina, che appunto come dicevi ha affrontato insomma un po' il discorso delle espropriazioni da parte insomma delle multinazionali, della Monsanto e delle altre che insomma hanno distrutto negli ultimi anni l'economia dell'agricoltura locale. E poi su questo insomma c'è anche un altro lavoro molto interessante invece dal Brasile insomma l'Amazzonia, il discorso insomma delle idriche all'esterno delle foreste, e per la prima volta al festival abbiamo scelto di aprirci insomma al formato non documentaristico, quindi un film di finzione, che è The Rice Bomber, questa volta insomma questo da Taiwan, che insomma diciamo una storia di pacifismo in un certo senso, ma anche di ribellione, e si rifà insomma a queste tematiche che tu appunto citavi, è la questione di una resistenza locale che si oppone alle misure del WTO, che insomma a Taiwan sappiamo come in altri paesi, aprendo alle importazioni di prodotti agricoli dai paesi occidentali, ha praticamente devastato l'economia locale, insomma. Le comunità contadine riescono a connettersi ad altre in altre parti del mondo che conducono più o meno le stesse lotte? Sì, infatti molti di questi documentari testimoniano proprio il grande network, la grande rete di reazione, insomma, soprattutto il movimento dell'area campesina ha negli ultimi anni insomma è riuscito ad allargare tantissimo questo discorso, rendendolo insomma anche oltre al territorio sudamericano. Sì. E poi nulla, insomma, poi in realtà dimenticavo dirti che ci sono anche tutta una serie di lavori provenienti invece dall'Italia, anche questi molto interessanti, di cui uno proprio sul tema della contaminazione d'acqua, che è L'Avvelenata, che è insomma un film ambientato che ripercorre un po' insomma la questione della motonave rosso che negli anni 90 si è arenata sulle coste calabresi, lasciando lì un carico di scorie nocive ancora oggi devasta la costa calabrese. E poi insomma abbiamo dedicato invece la questione dei migranti, e anche lì con una serie di lavori anche italiani sul tema. Erika, ci saranno presenti anche gli autori? Sì, in molti casi abbiamo alcuni autori che insomma ci aiuteranno insomma a introdurre i film, a presentare i loro lavori, soprattutto nel caso appunto delle piccole produzioni più indipendenti. Com'è strutturata la giornata del festival, questa 3 giorni? Allora, in questi 3 giorni diciamo che generalmente si parte dalle 16 e ci sono 5 film in programmazione per ogni giornata, e tra l'altro vabbè insomma il nostro festival è autofinanziato e quindi abbiamo scelto una foto di pagamento, ma il contributo è davvero basso, si tratta di 3 euro che danno accesso alla visione sostanzialmente di 3 film, e come appunto dicevo le sezioni sono tematiche, e quindi insomma c'è la prima giornata dedicata ai indigeni, la seconda giornata dedicata insomma a questioni un po' di taglio più ambientale, la terza giornata è dedicata alle questioni dei migranti, e è questo. Senti, per il programma le indicazioni internet quali sono? Sì, allora potete trovare tutto, anche il programma più dettagliato con maggiori informazioni sui singoli film sul sito, che è www.festivaldelletere.it, e sulla pagina Facebook anche. Ah, una curiosità mi è venuta adesso in mente rispetto alle passate edizioni: state mettendo su un archivio in cui ci siano informazioni sui lavori passati nelle scorse edizioni o comunque visionabili in qualche modo? Ecco, in realtà questa è una cosa a cui stavamo appunto proprio negli ultimi tempi su cui stavamo ragionando. Appunto in realtà Crocevia, che è poi insomma l'ente organizzatore facciamo riferimento, ha un archivio audiovisivo di documentari, fotografie, diapositive enorme rispetto a questa cosa, ma anche i film che sono passati insomma al festival nelle scorse edizioni, e sono 12 anni insomma, non sono pochi, sono tantissimi, e stiamo pensando proprio appunto a un progetto di archiviazione di tutto questo materiale, e per eventualmente poi anche renderlo disponibile ovviamente in rete. Un'altra delle tendenze proprie di alcuni festival è di estendersi durante tutto l'anno, non solo riguardo ai 3 giorni di programmazione di festival. Beh, state in questo senso anche progettando qualcosa? No, questo è un lavoro che noi già avevamo fatto, perché appunto nelle scorse edizioni ci sono state varie, appunto sono state altre edizioni del festival in Sardegna, in Calabria, a Milano, e quindi abbiamo esportato un po' questo formato, tentando poi a seconda dei territori in cui il festival si recava di raccontare appunto le storie locali rispetto appunto alle questioni di cui trattiamo, e speriamo anche quest'anno insomma di replicare la formula, ecco. Bene. Allora Erika, un abbraccio, un in bocca al lupo. Grazie e a presto. Grazie. Ciao. Ciao a tutti. Erika Romano, direttrice della 12ª edizione del Festival delle Terre, premio internazionale audiovisivo della biodiversità, al Teatro Ambra Garbatella qui a Roma dal 12 al 14 ottobre. In collegamento con Andrea Romeo di I Wonder Pictures sulla distribuzione del documentario Genis, al quale abbiamo dedicato la copertina di questa settimana con una foto in bianco e nero di Janis Joplin, in uscita in sala oggi giovedì 8 ottobre. Andrea, ben ritrovato. Saluti a voi. Allora, un bel lavoro, raccontaci un po' di questa storia, di questo documentario, Andrea. Ma una mattana che viene da lontano, e 7 anni che Amy Berg, regista americana, candidata agli Oscar, lavora sul di un film su Janis Joplin. 2 anni fa, quando il progetto è stato presentato al mercato di Cannes, a Alex Gibney se ne è fatto in qualche modo testimonial e supporter. Lui è un produttore e regista di grande successo nel mondo del documentario. Questo ci ha convinti che questo progetto sarebbe poi diventato un film, e un film atteso e importante, perché su Janis Joplin, come dire, si è ancora fatto molto poco al cinema, troppo poco probabilmente, tant'è che nell'ultimo anno e mezzo il progetto è diventato un film, e il film è stato presentato con grande successo ed entusiasmo alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia. E da lì l'uscita sala, che è oggi appunto in Italia ed è il primo paese al mondo, proprio perché noi con grande determinazione, un pizzico di follia, lo abbiamo voluto in anteprima mondiale a Venezia anziché a Toronto, e questo ci ha dato poi la possibilità di farlo vedere, diciamo, per primi agli spettatori italiani. Senti, un grande binomio, da un lato una grande... Tu volevi che io ti parlassi bene del film? Non posso, via. Cioè, è chiaro, a me il film piace, altrimenti me lo sarei tenuto in un cassetto. Mi inorgoglisce, è un film affettuoso, è un film intelligente, così come e più di Amy, con cui avevamo aperto il Biographic Festival, e che è un film che ho apprezzato nel suo equilibrio, nella sua intelligenza. Questo forse anche per la distanza, forse anche perché ha un taglio ovviamente diverso, ed è un personaggio di una caratura che la stessa Amy Winehouse riconoscerebbe oggi e faticherebbe a paragonare a se stessa. Ecco, chiaramente il film su Janis è un film importante, in cui il footage e la ricostruzione con così tanti anni di distanza è stata complessa e si è potuta fare grazie a 12 minuti inediti mai visti, mai ascoltati prima nel cinema e in televisione, e alla collaborazione della famiglia, quindi del fratello e della sorella di Janis Joplin. Senti, dicevo, rispetto alla figura della Janis Joplin, un grande binomio, da una parte un talento smisurato, dall'altra un'altrettanta smisurata sofferenza interiore. Ma sai, questa è la chiave importante, per certi versi appunto centrale del film di Amy Berg, perché parte proprio anche dal ricordo di chi le è stato vicina, di chi ha lavorato, cantato, suonato con lei, e dalla loro percezione che Janis fosse in qualche modo per gli altri senza pelle, in costante contatto e rapporto con il pubblico, con le persone, ecco, non soltanto dal palco, ma proprio nella vita, con una grande capacità di empatia che viene molto ben raccontata nel film, e una grande voglia di essere amata, un bisogno di essere amato, come abbiamo probabilmente ovviamente tutti noi, in più. Ne abbiamo parlato forse troppo poco, una voce che ci impara anche ci insegna anche a conoscere nelle sue fasi, nei suoi cambiamenti, e che in qualche modo proprio verso la fine, verso gli ultimi mesi, diventa anche un elemento di riflessione per la Joplin stessa, e comincia a utilizzarla anche in maniera diversa, e ne è molto felice e molto soddisfatta. Andrea, per quanto riguarda la musica, uno dei pregi del documentario, soprattutto per chi conosce poco la sua figura, è nell'avere tante delle sue canzoni e scelte anche con cura. Sì, devo dire che è proprio sontuoso da questo punto di vista, e ci sono interi momenti in cui c'è musica in scena, c'è lei anche con la sua fisicità. Ci sono le grandi avventure di Monterey Pop, di Woodstock, ma c'è la sua musica, c'è la sua voce. È bello che Amy Berger abbia coinvolto anche Don Alan Pennybaker, che a Monterey aveva filmato, per raccontare anche cos'è stata quella stagione. Ecco, è un film sulla Joplin, ma è anche un film su una stagione musicale, artistica, sociale, politica, e questo anche ci piace e ci interessa, e credo che sia anche quello che sta appassionando il pubblico. Ecco, dicevi di una fase storica. La cosa, per esempio, che mi fece impressione in età adolescenziale, quando mi sono avvicinato alla musica di quel periodo, è stato quello della scomparsa delle 3J, da Jim Morrison a Jimi Hendrix a Janis Joplin, tutti a 27 anni, tutti per aver speso la loro vita con eccesso, aver sondato nuovi territori, fatto uso anche di droghe pesantemente, insomma una... Sì, non erano gli unici tre che facevano uso. Esatto, esatto. Segnalarlo, perché ogni tanto mi sembra che si perda un dettaglio, no? Cioè, certo, era proprio... Gli unici tre che facevano uso di droga, né gli unici tre che sono morti. Certo. Come dire, si ricordano questi, ma chiaramente è una parte di quella stagione, anche forse la parte più drammatica. Però non è neanche l'unica da ricordare, da raccontare. Sì. No, però insomma, dà anche la misura di quello che è stato, nel bene e nel male, un'intera stagione che ha attraversato soprattutto la musica rock, e non solo la musica rock. Una riflessione un po' più allargata, non solo alla figura di Janis Joplin, insomma, ma anche a un mondo giovanile legato alla musica, al rock. Questo, insomma, si vede anche in tutto l'ambiente. Questo è anche un altro dei pregi del documentario, tutto l'ambiente, e che insomma era in interconnessione con queste figure, era attraversato nello stesso modo, nella stessa misura, dalle stesse problematiche, dalle stessi slanci, dalla stessa vitalità, e poi da momenti drammatici. Sì, è una stagione poi anche musicalmente è importante, quella che non ci siamo mai, come Wanda Pictures, cioè Sony Paul Geography Collection, di raccontare, e che per esempio continuiamo a raccontare anche la settimana prossima nella nostra rassegna all'interno degli UCI Cinemas, con La fabbrica del rock, che è un film piccolo, preziosissimo, su una band musicale che è dietro il successo di tutti, da Simon e Garfunkel a Frank Sinatra. Direi che con Sinatra ho detto tutto. È un film preciso che racconta anche poi come loro, questa Breaking Crew, arrangiasse pezzi che poi sono diventati patrimonio di tutti, e che arrivavano da loro forse ancora meno orecchiabili e meno mitici di quanto poi li abbiamo conosciuti noi. Sì, quindi è una scoperta in questo senso. Torniamo anche a quei giochi tipo Sugarman, di andare a scoprire poi degli ignoti che hanno fatto però magari belle cose artisticamente, che fanno parte della storia della musica. Andrea, che modalità di uscita per Janis? Una modalità di uscita che ci soddisfa molto. Ieri le anteprime negli UCI all'interno della rassegna Unipol Geography Collection sono state un grande successo, e per questo insomma siamo felici, sentiamo l'accoglienza, l'entusiasmo. Oggi una bellissima pagina sul Manifesto e tutta la stampa, ecco, dal Manifesto a Vanity Fair ha celebrato l'uscita di questo documentario. Il film esce a Roma sia al 4 Fontane che al Greenwich, e continua poi anche a UCI Porta di Roma. Bene. Dove la settimana prossima invece arriva mercoledì la Fabbrica del Rock. Bene. Allora, tutti i riferimenti su I Wonder Pictures, immagino, sul sito internet della Wonder. Sì, ancora di più e più velocemente, anche con i vari giochi, link e rimandi, con i nuovi contenuti speciali e con Gianna Nannini sul Facebook di I Wonder Pictures, raggiungibile ovviamente attraverso la piattaforma social, e che è più facile anche per tutti noi aggiornare in tempo reale, dialogando con gli spettatori, che devo dire, ecco, se un'obiezione l'hanno fatta all'uscita del film è come mai non in maniera così pervasiva nel sud Italia, in tante aree di provincia. Faremo il possibile, questo entusiasmo ci appassiona, comunque siamo molto felici che si veda, si vedrà in oltre 20 città questa settimana e spero presto ancora di più. Un abbraccio, alla prossima Andrea. A voi, alla prossima. Ciao. Andrea Romeo di I Wonder Pictures sulla distribuzione del documentario Genis, in uscita in sala oggi giovedì 8 ottobre. Iris Martin Peralta di Exit Media sulla distribuzione del film La vita è facile ad occhi chiusi, in uscita in sala anche questo, in sala oggi 8 ottobre, giovedì. Iris, ben ritrovata dopo un po' di tempo. Sì, salve, buon pomeriggio a tutti. Allora, per chi ci ascolta, partiamo dal titolo. Di cosa racconta questo film? La vita è facile ad occhi chiusi, magari qualcuno appunto li stuzzica qualcosa al titolo, innanzitutto perché è un verso della canzone Strawberry Fields Forever, Living is easy with eyes closed. Raccontiamolo anche un po', facendo un po' un quadro di quella che era la situazione. Questo film si inquadra proprio nel bel mezzo della Spagna franchista, diciamo nel 1966, e racconta la storia di questo professore, che è un insegnante di inglese proprio in quel contesto lì, che usa dei metodi, diciamo, poco convenzionali, considerando appunto che la Spagna è in piena dittatura, perché lui insegna l'inglese ai ragazzi usando le canzoni dei Beatles. Mm-hmm. Che tra l'altro ascolta, insomma, in una radio clandestina all'epoca, che era Radio Luxembourg, no? Che in Spagna le canzoni dei Beatles non erano non soltanto non ben viste, ma anche vietate, ecco, no? E lui usa appunto queste canzoni per insegnare l'inglese ai ragazzi, e sapendo che John Lennon era in Almeria proprio in quel momento per girare un film con Richard Lester, Come ho vinto la guerra, decide di prendere la macchina e andarlo a incontrare John Lennon per dirgli, insomma, di questo metodo di insegnamento, e suggerirgli che li corregga, infatti un quaderno dove lui trascrive le canzoni dei Beatles, no? I testi, diciamo. Ecco, proprio rispetto ai metodi di insegnamento, ognuno dei tre protagonisti, dalle storie di ognuno dei protagonisti emerge una realtà di autoritarismo clerico-fascista, poi alla fine per tutte e tre le storie, quindi che descrive anche tutto un retroterra, un ambiente in quel periodo storico. Sì, in effetti, come dici te, infatti il regista David Trueba definisce questi tre personaggi, come hai ben visto e segnalato te, li definisce gli eroi anonimi, no? Perché sono alla fin fine tre persone che sono tre rivoluzionari, cioè che con il suo piccolo, no? Diciamo, sublevandosi, sovvertendo le loro vite, hanno contribuito a quello che è stato poi il cambiamento sociale proprio nella Spagna franchista, no? Cioè, appunto, David Trueba racconta in alcune interviste come è attraverso, no? le piccole rivoluzioni quotidiane che uno fa, che ogni rappresenta ognuno dei personaggi del film, è attraverso queste rivoluzioni, no? Che avviene quello che è il cambiamento sociale. Quindi questo infatti nel film, attraverso questi tre personaggi, seguendo il loro percorso e ognuno, insomma, con la sua diciamo tragedia di vita, arriva proprio a questo fatto rivoluzionario, no? Sono proprio tre eroi anonimi rivoluzionari, ecco. Senti, il personaggio più adulto, il professore, dà delle indicazioni molto precise, molto puntuali su quella che è una situazione, e secondo me sono anche molto indicative e spiegano anche molto, nel senso, da una parte dice che i giovani sono disperati e cercano di fuggire, e dall'altra c'è una paura che investe tutta la società rispetto al sociale, a tutto quello che l'autorità impone. Sì, chiaramente, cioè, e adesso per esempio a noi, che nel caso che le persone che siamo già nati, diciamo, in democrazia, rimane come se fosse una cosa lontanissima, e non dimentichiamo che la Spagna è dal 70, cioè Franco morto nel 75, quindi stiamo parlando di un periodo proprio della storia recente, no? Sì. Il personaggio del professore, è chiaro questo che dici, che sono pienamente d'accordo, che per il suo modo, diciamo, di sollevarsi contro l'autorità, c'è anche questa componente magari un po' utopica, no? Perché lui decide appunto andare a incontrare a John Lennon, che è il suo idolo. Lui non pretendeva in quel momento, con quella mossa, diciamo, influire nella storia della musica come dopo successe, no? Lui per questo non era una cosa che veniva spinta da una logica, diciamo, interna, non tanto da una diciamo lotta consapevole, ma di una lotta interna alla persona, no? Che dice, ma se l'inglese c'è la musica e ci sono le canzoni del Beatles, che modo migliore, no? È una cosa molto logica usare, insomma, la musica, no? Come metodo didattico. Senti, per quanto riguarda le copie, Iris, come uscirà il film oggi in sala? E oggi l'uscita, intanto oggi segnalo anche che l'attore Javier Cámara a Roma farà un saluto sia agli spettatori del cinema farnese che sia agli spettatori del cinema Madison, e al Farnese alle 20:30 e al cinema Madison dopo la proiezione delle 20:50, quindi questa è una opportunità per oggi. Poi comunque il film in Italia in 26 sale questa 26. Settimana e in diverse piazze, e quelli che sono, insomma, di città dove ancora questa settimana il film non c'è, non disperate, perché il film arriverà ovunque. Siamo più che certi che è un film che farà un lungo percorso, perché è una storia, a parte di tutti i premi che ha vinto, da una storia di quelle che c'è un messaggio, c'è un messaggio forte dietro, e si lascia vedere uno, insomma, sì. si gode, no, anche questi spazi. Poi c'è l'Almeria degli spaghetti western, no? Tanti cinefili che ascoltano il vostro programma riconosceranno anche quei scenari dei Sergio Leone, insomma, proprio in quel momento lì ha ambientato il film. Sì. Insomma, la Spagna ha apprezzato il film, che ha ottenuto tanti premi Goya, e quindi anche sta facendo i conti col proprio passato. Insomma, mi pare un ruolo positivo lo abbia svolto anche un film come questo, che salutiamo per questa uscita in Italia. Sì. Iris, io ti ringrazio. Sì, infatti era il film spagnolo che rappresentò gli Oscar, quindi sottolineo assolutamente che in Spagna c'è una volontà ogni volta maggiore di affrontare quel periodo della transizione, dell'ultimo franchismo, diciamo, la transizione, perché è proprio fondamentale, no? Cioè, capire come il cambiamento è avvenuto non tanto da un fatto politico sul tavolino, ma della mentalità delle persone, no? Sì. Bene, Iris, allora io ti abbraccio e a risentirci presto. Sì, saluti a tutti gli ascoltatori, buon pomeriggio e andate al cinema. Ciao. Iris Martin Peralta di Exit Media sulla distribuzione del film La vita è facile ad occhi chiusi, in uscita in sala oggi, giovedì 8 ottobre. E con questa chiudiamo la puntata di questa settimana per quanto riguarda Visionari. Torniamo giovedì prossimo sempre dalle 14 alle 15. Tutte le informazioni sul sito internet della radio, ondarossa.info, alla voce trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari. Per comunicare con noi, indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info.